Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti, dai che è venerdì, noi siamo pronti e abbiamo come sempre i titoli del nostro sommario, ma prima c'è Pietro alla Corte in regia alla parte tecnica, che voglio salutare e ringraziare, è anche un bel ragazzo, e Laura Vanossi in redazione, bella e brava, e quindi il nostro sommario. Lento o rock? Com'è il tuo sport ideale? A ciascuno il suo profumo, la parola al naso. Appuntamento in farmacia per la giornata nazionale del farmaco. Festeggia San Valentino con Telethon, un gesto d'amore per la ricerca. Sudare o non sudare? Questo è il problema. C'è chi per essere soddisfatto e appagato ha bisogno di impegnarsi in un'attività strong, rock, chi invece preferisce un passo più lento. L'importante però, al di là di tutto, è muoversi meglio se con gradualità. Dottor Confalonieri, voilà, eccoci. Buongiorno. La parola magica per introdurla. Ormai si è associata fortemente alle cose che ci raccontiamo tutti i venerdì. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Lei è lento o rock? Io lento, assolutamente lento, proprio perché prediligo attività sportive da fare con dolcezza, da fare con lentezza, che siano nuotare, che siano camminare, che siano fare dello sci di fondo piuttosto che della bicicletta. Ecco, privilegio un andamento lento, sicuramente. Però lei non deve essere di parte, eh? Mi no, raccomando, no. Dottor Confalonieri, lei, io volevo veramente sapere se era lento rock in generale, anche nella vita, ma lei è sgusciato via. Vabbè, faccio finta. Questa è un'osservazione interessante, perché invece personalmente, poi chiudiamo con questi aspetti, nella vita sono sicuramente rock, quasi hard rock, con ritmi difficilmente gestibili, e forse questa è una chiave. Forse chi ha una vita molto intensa, molto stressante, molto rock, poi magari sceglie un'attività lenta. Ma come gliel'ho alla servita? Grande. Allora, la domanda di oggi quindi è? La domanda di oggi è: preferite un'attività sportiva, un'attività fisica lenta, tranquilla, o un'attività intensa, scatenata? Preferite lo sci di fondo o la sci da discesa? Preferite il nuoto o preferite lo squash piuttosto che il tennis? Preferite la corsa lunga o preferite il calcetto? Ecco, ci sono tanti esempi. Preferite il pilates o preferite il ballo? Ecco, ho fatto già alcuni esempi e vorrei che i nostri ascoltatori ci dicessero cosa preferiscono e perché magari. Quindi attivatevi, se siete di corsa fermatevi e fate il nostro numero verde 824 0024. Se avete il vostro invece solito andamento lento, datevi un po' una mossetta, perché chi prima arriva meglio alloggia e si accomoda nel nostro spogliatoio del venerdì. Una mela al giorno. Di che cosa sapete oggi? Profumate di buono, di sapone? Oppure stamattina non avete neppure indossato il vostro profumo? Va bene lo stesso, direi, perché le note e l'atmosfera del profumo arrivano via etere con la voce della nostra magnifica Laura Tonatto. Bentornata, Laura! Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo qui con queste note profumatissime, perché siamo addirittura d'arrivo a San Valentino, e quindi indossare un profumo vuol dire comunicare la nostra personalità anche in momenti così belli. E ambra, tuberosa e vaniglia, ricordiamoci che sono note molto sensuali e molto passionali, quindi per chi ha questo mood in queste giornate assolutamente consiglio queste tonalità. Sì. Chi è invece un po' più romantico, può pensare alla rosa, al gelsomino o al mughetto. E per gli uomini invece... Aspetti un attimo, Laura, Laura, ti do del tu. Perché non riesco. Perfetto, ecco. Certo. Aspetta un attimo, perché il dottor Franco Confalonieri è un tuo fan sperticato. Allora gli chiediamo subito una consulenza. Da uomo, qual è il profumo che le piace su una donna? Più romantico, rose e gelsomino, oppure più, come dico, Laura, aiutami, rotondo, persistente? Più sensuale, sensuale, più avvolgente, ambra, tuberose, vaniglia, così noi lo indossiamo venerdì. Ma secondo me, io sono per la seconda ipotesi, cioè un profumo più sensuale, sicuramente più seducente, più avvolgente, come è stato detto, un consumo che ha un profumo che aumenti proprio il desiderio nell'uomo, ecco, secondo me questo è quello che preferisco. Poi forse in un'occasione come il San Valentino mi piacerebbe un profumo che mi riporti un po' all'adolescenza, alla gioventù, mi ricordi i primi San Valentino che forse sono anche i più belli. Laura, e quali sono? Che meraviglia! Ma vedi? Bellissima. Vedi a frequentare. Un uomo che parla dei profumi che ama sentire sulle donne, insomma, è bellissimo. E sarei curiosa di conoscere qual è invece il profumo che usa lui per conquistare il gentilsetto, magari quando era giovane che cosa utilizzava. Dottor Io ho sempre utilizzato un profumo, non diciamo la marca, comunque il nome è Contradiction, che credo mi rappresenti abbastanza bene a vari livelli, ecco. Ecco, è bellissimo scoprire che le persone proprio nei gusti olfattivi hanno delle idee e hanno molta personalità. E quindi anche per gli uomini, per esempio, è molto interessante in questo periodo utilizzare le fragranze classiche, vetiver e sandalo per esempio, ma abbinarle a note molto fresche, molto che danno molto energia, tipo il bergamotto, che è la nota assolutamente più fresca che si possa utilizzare in un'acqua di colonia maschile, perché ricordiamoci che gli uomini non dovrebbero mai lasciare la scia quando indossano un profumo, perché è veramente volgare sentire un uomo con questa scia. L'uomo deve avere una nota fresca, classica, molto avvolgente, ma mai volgare. Ecco. Si sente solo in un incontro ravvicinato, Laura, esatto, il profumo di un uomo. Le persone che ci conoscono bene devono poter conoscere il nostro odore, il nostro profumo, nel caso maschile, ecco. E anche per le donne, però, soprattutto sempre, ma anche a San Valentino, poche scie. Poche scie, perché ormai il tempo che noi viviamo è veramente cambiato, e quindi chi lascia la scia deve avere un motivo per lasciarla, e cioè deve sapere che qualcuno non si deve dimenticare di quell'incontro, di quel momento. Quindi lasciare sempre la scia è un po' come invadere lo spazio olfattivo altrui, e a volte può essere molto pericoloso perché c'è la reazione opposta, cioè un senso di repulsione, perché questa persona è troppo profumata e troppo aggressiva olfattivamente. Allora, io ringrazio Laura Tonatto, ci fai sempre sognare, Laura. Io sento, adesso guardo il dottor Confalonieri, mi sembra anche più profumato. Sì, rapito anche dalle cose che ho ascoltato. Grazie a Laura Tonatto, grazie, un abbraccio. Grazie a voi e buon San Valentino. Grazie. Pronto soccorso. Tu per arrivare al titolo hai bisogno di dimagrire 3 kg. Vuoi arrivare al titolo? E allora passiamo alla corsa veloce. Pure. Pure. Ho misurato il perimetro dell'albergo. Sono 1000 metri. Quando? 1000 metri! E non strilla! Quando io mi allenavo per il titolo europeo ci impiegavo 6 minuti. Vabbè. Però sono convinto che se ti impegni tu ci impiegherai di meno. Se sei convinto te. Sei pronto? Dai. Via. E che fai, non parli? Eh no, prima devi di via, poi schiacci. In giro va, Bertolao. Oh. Va bene, va bene. Pronti? Via! E non me strilla! Dai, muoviti, alza le chiappe, muoviti, corri, no! Muovi quel tronco, svezzo! Schiva! Forza, vai, piegati sul tronco, devi schivare, schiva! Schiva, schiva! Schiva, sembri un torso, muoviti! Schiva, e che dopo ti faccio una bella spremutina! E adesso più veloce, via, via! Fermo con le gambe, finta sul tronco, via così! Piegati, di più, ancora! E allora riprendiamo il tema del giorno su queste note che ci caricano, dottor Confalonieri, e io direi che è arrivato il momento anche di capire quali sono i pro e i contro, i vantaggi e i limiti dell'attività rock e di quella lenta, che abbiamo già descritto, sì, rapidamente. Linee, sì. Molto sinteticamente, proprio perché cerchiamo di dare informazioni rapide e precise, innanzitutto in funzione del dimagramento, che è il tema spesso che più spesso appunto ci viene richiesto. Classicamente si considera le attività lente e prolungate come le più efficaci nel determinare dimagramento. È vero, ma con un'avvertenza. Si è visto soprattutto ultimamente che attività intense ed intervallate sono molto efficaci nel far dimagrire, proprio perché durante i periodi di recupero di una serie in palestra, piuttosto che di una partita a tennis, piuttosto che di una partita a calcetto, noi ricostituiamo la nostra energia consumando grassi. Quindi direi meglio le attività lente, ma attenzione, perché possiamo dimagrire in modo efficace anche con un'attività intensa ma intervallata. Dottor Confalonieri, per il nostro apparato cardiovascolare, lento rock? Ma direi lento in questo caso, nel senso che sicuramente l'attività lenta è meno stressante, meno pericolosa e soprattutto per ridurre la pressione arteriosa, che è uno dei fattori di rischio che si sviluppano maggiormente con l'avanzare dell'età, l'attività lenta è più efficace. Indubbiamente anche un'attività rock in una persona sana è più sana che non il riposo o il nulla. E per ossa e muscoli? Per ossa e muscoli diciamo che un'attività di palestra di potenziamento anche relativamente intensa, semirata e strutturata su misura, è più efficace che un'attività lenta che comporta mediamente un sovraccarico cronico sempre sugli stessi gruppi muscolari, sempre sulle stesse articolazioni. Quindi in questo caso direi un'attività rock mirata. Prima di parlare dell'aspetto emotivo, che sicuramente gioca un ruolo fondamentale nella scelta e anche nella pratica dell'attività sportiva, lei prima ha detto: io ho una vita che è molto rock e quindi preferisco un'attività sportiva lenta. Magari chiediamo ai nostri amici da casa se confermano questa sua lettura. 824 0024. Andrei a salutare Marco, che ci chiama da Torino. Marco, buongiorno. Buongiorno a voi tutti, buongiorno. Ci racconti, lei che cosa fa? Allora, io pratico da anni arti marziali e ho una scuola di scherma antica e insegno scherma medievale. Però E se la domanda è se più rock o blues piuttosto che classico, cerco di essere entrambe le cose, perché in realtà mi servono entrambe le cose. Cioè mi serve resistenza e tenuta sul medio-lungo periodo e mi serve però anche scatto e velocità. Quindi nei miei allenamenti e gli allenamenti che propongo ai miei allievi sono fatti di esercizi, diciamo, aerobico, sì. No? Quindi con una certa cadenza, abbastanza ripetitiva e contemporaneamente sovrapponendo e abbinando anche qualcosa di anaerobico, perché si sa, nel combattimento gli scatti, gli evitamenti devono essere veloci e devono essere comunque efficaci. Insomma, Marco, lei sarebbe un cavaliere perfetto. Lei balla, Marco? Io mi piace ballare, non ballo, ma mi piace ballare, sì. Vede, dottor Confalonieri, quante persone interessanti le faccio incontrare qua a Essere Benessere? Eh sì, questa è un'esperienza molto interessante, perché diciamo che l'attività di cui ci parlava Marco è un'attività che sintetizza poi due aspetti, perché poi è chiaro che anche la distinzione è relativamente forzata, cioè in molte attività ci sono entrambe le componenti. Spesso ci sono solo nell'allenamento, e questo è un aspetto significativo, cioè anche le attività più rock, anche le attività più intense hanno bisogno come prerequisito e come allenamento spesso di un lavoro lungo, lento, aerobico, come raccontava il nostro ascoltatore. E poi direi che nelle arti marziali, come nella scherma, indubbiamente i due aspetti convivono. C'è l'attenzione, c'è lo studio, c'è la meditazione, c'è la riflessione per un gesto che poi si esprime con grandissima rapidità. Quindi queste sono sicuramente attività di sintesi fra i due aspetti. Devo dire che i nostri ascoltatori si stanno schierando, mandando sms al 349-238-6666. Ho contato rapidamente i messaggi e devo dire che al momento sono in parità, lento e rock. Ma vediamo da dove fa pendere l'ago della bilancia. Oscar, che ci chiama da Rimini. Oscar. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Io sono una persona fortunata, perché abitando in una città di mare ho la possibilità di fare uno sport che magari pochi possono fare. Ho conosciuto 4-5 anni fa la vela, l'andare in barca a vela. E essendo io una persona che ha avuto un po' di problemi a seguito del vecchio centro stradale, eccetera, mi dà la possibilità di fare questo sport e un po' tutti i muscoli, il fatto stesso che si sta seduti in barca e che e la barca si muove in senso longitudinale o orizzontale, solo i muscoli della schiena vengono sollecitati continuamente. Poi le braccia per poter cassare le vele, le braccia per puntare i piedi quando devi fare uno sforzo, ma comunque non sono sforzi traumatizzanti. Poi il professore che è lì darà conferma. Ha ragione Oscar, dottor Confalonieri? Ha ragione, anzi sono grato a Oscar di averci chiamato, perché in effetti della vela abbiamo parlato raramente, invece è uno sport affascinante, interessante, completo dal punto di vista fisico e molto praticato, quindi ci ha dato l'occasione per tornare su questo tema. È sicuramente uno sport complessivamente lento, perché è uno sport che ha tempi lenti, ma essendo uno sport legato alla natura, è uno sport che improvvisamente può diventare assolutamente rock, assolutamente intenso. Quando il mare cambia, quando il vento cambia, si determinano situazioni in cui dobbiamo essere rapidi, efficaci, veloci, e quindi è uno sport nel quale in alcuni momenti convivono proprio i due aspetti. Oscar, uscirà oggi o domani? Oggi o domani sicuramente sì, e domenica abbiamo la regata qui a Rimini. In bocca al lupo. Grazie. Buon vento. Si dice buon vento, grazie ad Oscar. Allora, parliamo invece dell'aspetto emotivo, dottor Confalonieri, perché Oscar ha detto: io ad esempio esco in barcavela, ho avuto dei problemi per incidenti, ma sicuramente ci ha dato un'immagine del mare quando è calmo, e chiudendo gli occhi vediamo Oscar, no? Con la sua barchetta a vela, magari è un barcone, però io lo immagino su una barchetta che veleggia. Ma l'aspetto emotivo sicuramente è diverso. Diciamo che probabilmente gli sport più intensi, pensiamo allo squash, pensiamo alla discesa sugli sci, i primi due che mi vengono in mente, probabilmente liberano una quantità di adrenalina ed endorfine molto maggiore nell'unità di tempo, quindi ci creano questo benessere emotivo con maggiore rapidità e maggiore violenza. Lo sport lento crea comunque benessere, ma magari è un benessere più stabile e più prolungato nella fase successiva. C'è anche un altro aspetto emotivo che secondo me è estremamente interessante, perché è chiaro che l'attività fisica si accompagna con un certo tipo di rapporto con la propria corporeità. Ecco, io ho notato, parlando con tanti che fanno sport, che mediamente chi fa un'attività intensa ascolta il suo corpo soprattutto dopo, per vedere come ha reagito, se ci sono doloretti, se ha faticato, se non lo è. Chi fa un'attività lenta invece, che sia il Pilates, che sia lo sci, che sia la corsa, tende ad ascoltare molto il suo corpo, a parlare con il suo corpo durante l'attività. E questo credo anche sia un aspetto che differenzia queste due tipologie di fare sport, estremamente interessante. Allora, se siete d'accordo o se siete assolutamente in contrasto con quello che ci ha appena raccontato il dottor Confalonieri, non avete che da comporre il nostro numero verde 824 0024 o scrivere, come lo state facendo, al 349 238 6666. Ci scrive ad esempio Luisa della provincia di Venezia: sono podista per passione, rock se devo scaricare stress con corse veloci dopo lavoro, tranquilla se voglio assaporare la natura. Siamo tornati insieme, come ogni venerdì parliamo di attività sportive e di allenamento, ma ci fermiamo, non so, a bordo campo per commentare, come avranno fatto molti di noi oggi davanti al giornale, la notizia che riguarda l'intervento al cuore di Bill Clinton. In linea con noi abbiamo il professor Antonio Bartorelli, che è professore di cardiologia all'Università di Milano e direttore della cardiologia interventistica al Centro Cardiologico Monzino di Milano. Professor Bartorelli, buongiorno. Buongiorno. E soprattutto grazie. Allora, Clinton sta bene, riprenderà al più presto la sua attività di raccolta fondi per Haiti, ma che cosa è successo all'ex presidente? Ma è successo qualcosa che può succedere a pazienti operati in precedenza di bypass aortocoronarico, soprattutto se il condotto utilizzato per bypassare le arterie coronariche ristrette è stato una vena safena. In pratica lui aveva subito un intervento di bypass in cui era stata usata un'artera mammaria che era ancora perfettamente funzionante, ma ahimè una vena safena a distanza di 5 anni si era chiusa, e fortunatamente l'arteria coronarica sulla quale era stato bypassato questa safena era ancora aperta, sebbene molto ristretta, e aveva quindi cominciato a ridare disturbi. disturbi di tipo anginoso. Quindi dolore, vero professore? Dolore al petto, esattamente, dolore al petto simile a quello che l'aveva portato al primo intervento. E questo ha fatto sì che lui si è rivolto ai colleghi americani, ai cardiologi americani, che l'hanno sottoposto a una coronarografia che ha evidenziato la situazione, quindi di questa vena safena utilizzata come bypass che si era chiusa e dell'ostruzione che ancora esisteva sulla sua arteria coronarica nativa. E quindi è stato fatto quello che oggi è un po' la soluzione migliore in questi casi, cioè non si rioperà con un bypass, ma si sottopone il paziente a un intervento di angioplastica con un impianto di stent che nel caso di Clinton, come di molti pazienti italiani, è stato uno stent medicato, cioè uno di quegli stent che riduce molto significativamente il rischio di riocclusione dell'arteria. Professor Bartorelli, cosa insegna la storia di Clinton? Perché, come lei ha detto in apertura, ci sono tante persone che sono state sottoposte a bypass coronarico, come appunto l'ex presidente, ma quanto è alto il rischio che si trovino nella condizione di subire un nuovo, dico, intervento, nel senso che debbano di nuovo recarsi in ospedale e quindi passare la mano al chirurgo? Ma allora, dobbiamo guardare ai dati della letteratura scientifica. In pratica i dati dimostrano che in svariati studi che nel 30-40% delle vene safene a distanza di 2-3 anni si occludono. Questo a volte si accade senza nessun sintomo per il paziente, altre volte invece il paziente ricomincia a aver sintomi oppure può avere addirittura un infarto. Questo è il motivo per cui i pazienti che hanno subito un intervento di bypass ortocoronarico devono essere monitorati nel tempo, in modo di scoprire in tempo utile se uno dei condotti che il chirurgo ha confezionato durante il bypass si sta degenerando col tempo, e quindi intervenire tempestivamente prima che la chiusura del bypass avvenga. E oggigiorno si tende, se è possibile, intervenire più che sul condotto stesso, sull'arteria nativa, perché questo, si è visto, è gravato da meno rischi procedurali e da miglior successo a lungo termine. Ovviamente se l'arteria nativa è chiusa si può intervenire anche sul condotto che è stato utilizzato dal chirurgo. Ricordo per gli ascoltatori che la vena viene utilizzata, la vena che viene presa dal paziente stesso, dalla gamba del paziente, mentre l'arteria mammaria è un'arteria che decorre sul torace, e quest'ultima ha una durata sicuramente molto migliore rispetto alla vena safena. Professor Bartorelli, quindi una raccomandazione per i nostri ascoltatori che hanno avuto un bypass coronarico è, mi raccomando, controlli. L'esperienza di Clinton insegna. L'esperienza di Clinton sicuramente insegna, e oggi ci sono tecnologie di imaging, cioè di visualizzazione di questi condotti non più invasivi, cioè ad esempio questa nuovissima tecnica della TAC coronarica che permette di vedere i condotti e vedere se qualcosa non funziona in questi condotti tempestivamente. Professore, grazie per essere stato con noi, è stato davvero chiaro. Buona giornata. A voi. Andiamo a Bari, dottor Confalonieri, perché c'è Fulvio che ci aspetta. Fulvio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, e complimenti per la trasmissione, sono d'obbligo. Grazie. Allora, avevo una domanda da fare al professore. Dunque, io ho fatto per tanti anni, continuo a fare uno sport anche a livello agonistico, che è l'equitazione, in particolare salto ostacoli. Però ho iniziato da circa 7 mesi a farne un altro completamente diverso, perché è uno sport aerobico, che è il ciclismo. Sì. E lo sto facendo in maniera abbastanza intensa, nel senso che riesco a fare anche un 500-600 km al mese. Volevo sapere quindi fare, insomma, quasi quasi viene a trovarci a piedi. Sì. In bicicletta. Ci diamo in bicicletta, sì, in cammina, e qua arriva tra poco. Ci racconti, no, la mia domanda era questa: i pro e i contro di questi due sport così così diversi, voglio dire, tra di loro, a livello articolare, a livello muscolare, a livello di benessere. Devo dire che il ciclismo effettivamente a livello di, come dice, le endorfine mi sta creando veramente molto molto benessere. Fulvio ha fatto una bella domanda. Ma eh? Diciamo che sono dai, due che sport in parte complementari. Il primo è uno sport relativamente più intenso dal punto di vista muscolare e soprattutto con una costanza non distribuita in modo uniforme nel tempo, mentre nel ciclismo lo sforzo è uniforme e graduabile. Diciamo che quindi sono ben abbinabili da questo punto di vista, mentre le eventuali controindicazioni sono legate al fatto che in entrambi gli sport c'è un utilizzo prevalente della muscolatura degli arti inferiori ed entrambi gli sport sovraccaricano in modo specifico la colonna, soprattutto l'equitazione. Quindi sarebbe più indicato compensare il sovraccarico della colonna tipico dell'equitazione con uno sport aerobico magari in scarico come il nuoto. Per il resto si integrano perfettamente. Devo sentire la fatica, altrimenti non mi sembra di avere esiti. Mi sorprende sempre come risponde bene il mio corpo a buone fatiche, pur non essendo una persona che svolge attività fisica costante. Questo ci scrive Silvana, 52 anni, dottor Confalonieri, che devo dire è uno dei tanti messaggi che vanno ad ingrossare la quota dei messaggi dei nostri ascoltatori che sembrano preferire l'attività un po' più quella che fa sudare, insomma, che noi abbiamo chiamato rock. Bah, questo è un aspetto interessante, nel senso che il rapporto con la fatica caratterizza proprio due sottogruppi in coloro che fanno sport. Ci sono coloro che per stare bene hanno bisogno di fare fatica, cioè proprio traggono benessere dalla sensazione di fatica ovviamente gestita, e invece ci sono coloro che devono fermarsi prima della fatica, perché il rapporto con la fatica è un rapporto di dolore e di sofferenza, e quindi attività sì, ma senza fatica. E indubbiamente lo sport lento da questo punto di vista consente di graduare maggiormente, cioè lo sport lento posso farlo sudando, ma posso anche farlo gestendo la fatica, mentre mediamente lo sport veloce, lo sport rock, è uno sport che comporta fatica elevata. E allora, per accendere un po' la tifoseria dei nostri ascoltatori che dovrebbero scrivere la loro preferenza per l'attività lenta, io ho in linea un grandissimo campione e siamo andati a ripescare alla Fiera Subacquea di Bologna. In linea con noi Umberto Pellizzari, direi uno dei più grandi apneisti della storia. Umberto, buongiorno a tutti. Buongiorno a te Umberto. Allora, ti abbiamo naturalmente scelto come testimonial dell'attività che noi abbiamo chiamato lenta. Abbiamo fatto bene? L'apnea può essere ci sta, no, come definizione? Sì, sì, sicuramente, ascoltando il pregevole intervento che è da poco terminato, di sicuro, come dire, la disciplina dell'apnea non rientra in quanto descritto. Non vi è uno sforzo intenso, soprattutto durante l'attività in sé, durante l'attività subacquea, durante l'attività apnoica, e avvengono però delle situazioni fisiologiche abbastanza anomale, nel senso che dopo una prova di apnea in dinamica o in profondità il cuore tende inizialmente ad abbassarsi per l'effetto della bradicardia, quindi durante lo sforzo non abbiamo ossigeno, quindi il primo automatismo, il primo richiamo del nostro corpo è quello di ridurre la distribuzione del poco ossigeno che abbiamo, quindi di conseguenza una bradicardia, una riduzione della frequenza cardiaca. Nel momento in cui usciamo, dal momento in cui effettuiamo il primo respiro, la frequenza si alza prepotentemente con valori esponenziali e può arrivare a 180-190 pulsazioni in pochissimi secondi, per poi ritornare gradualmente a scendere. Quindi sono questi andamenti molto particolari, molto a picco, una tendenza alla discesa, poi una risalita graduale, poi il picco in uscita. Quindi è difficile in apnea poter lavorare tenendo come riferimento la frequenza cardiaca, che è un po' la base dei vari lavori aerobici o anaerobici, di capacità aerobica o potenza aerobica, che contraddistingue l'allenamento del nuoto, della corsa e di molte altre specialità, prove, sport aerobici. Siamo in linea con Umberto Pellizzari dalla Fiera Subacquea di Bologna e qua in studio il dottor Confalonieri, che voleva ritornare proprio su un aspetto che avevamo toccato nel corso della trasmissione, sì, che è il rapporto con il corpo. Esatto, dottor Confalonieri. Abbiamo sottolineato durante la trasmissione come nell'attività lenta sia fondamentale il rapporto con la propria corporeità, l'ascoltare il corpo durante l'attività, cosa che invece avviene meno con le attività più intense, dove magari ci si concentra sugli effetti dell'attività dopo. Volevo una conferma in questo senso da Pellizzari, che oltretutto è protagonista di una specialità in cui il corpo viene proprio portato all'estremo delle proprie potenzialità, quindi credo che il saperlo ascoltare sia estremamente importante. Umberto. Da questo punto di vista sicuramente l'apnea, avendo il punto di vista concentrazione e osservazione delle proprie reazioni del proprio corpo, in questo senso sicuramente l'apnea rientra nello sport lento, come si era detto all'inizio. Credo sia fondamentale cercare e ritrovare la massima sensibilità sul proprio corpo, su quello che il tuo corpo ti dice in quel momento, in ogni momento durante la prova di apnea, per capire quanto puoi spingere e per capire soprattutto quando è il momento di girarti e di tornare in superficie. Quindi devi avere la massima sensibilità su quelle reazioni particolari che il tuo corpo ti invia e ti segnala in ogni momento, che devi riuscire a decifrare e capire. Grazie ad Umberto Pellizzari e complimenti. Arrivano i messaggi, dicono che tu sei un vero guru, Umberto. No, diciamo che arrivando da lì, il mio tutor, il mio maestro è stato Jacques Mayol. Lui ha introdotto per primo lo yoga applicato all'apnea, e quindi è chiaro che partendo da lui l'aspetto mentale e di rilassamento nella pratica dell'apnea per me è fondamentale. Quindi è chiaro che faccio l'apnea in questo modo e insegno l'apnea in questo modo. Grazie a Umberto Pellizzari, buona giornata. Salve. Salve. Dottor Confalonieri, voglio leggerle un messaggio, aspetti che lo vada a ricercare, di Sergio da Bergamo, è arrivato da un po', ma adesso lo ritrovo, eccolo. La chiama professore, invece è un dottor, no? Sì. Allora, porta acqua al suo mulino, continua a dire che è meglio l'attività sportiva lenta. Oi, oi, oi, oi. Beh, non è proprio così, questo ci serve anche per puntualizzare ancora in chiusura gli aspetti a favore di uno o dell'altra. Sicuramente l'attività sportiva lenta è meno stressante, è più favorevole rispetto a quella che è la funzionalità dell'apparato cardiovascolare, però come ho avuto modo di sottolineare, l'attività sportiva intensa, ben gestita, spesso è più efficace nel non sovraccaricare, non danneggiare articolazioni e muscoli, ma anzi potenziarli in modo specifico. Non solo, ribadisco che al di là della convinzione di tanti, non è vero che possiamo dimagrire solo attraverso un'attività sportiva lenta, ma possiamo dimagrire magari anche più rapidamente se scegliamo un'attività intensa all'interno della quale ci siano gli opportuni intervalli e le opportune pause, che d'altra parte sono caratteristiche di gran parte delle attività intense. Quindi diciamo, è vero che personalmente privilegio quelle lente, ma ho cercato di sottolineare anche gli aspetti belli, al di là della liberazione di adrenalina, di endorfine, liberatori che ci sono nelle attività più rock. Dottor Confalonieri, però in occasione di San Valentino, lento rock, cosa possiamo dire a chi si allena? Rinunciato ad un allenamento in favore del vostro partner. Assolutamente sì. E alla giornata di San Valentino si legano eventi di raccolta fondi o di comunicazione, tante iniziative mirate proprio alla ricerca di un trattamento farmacologico efficace per due malattie rare. In linea con noi ce ne parla Francesca Pasinelli, che è direttore generale di Teleton. Buongiorno a lei e benvenuta. Buongiorno, grazie dell'invito. Dottoressa Pasinelli, dopo la maratona televisiva di dicembre, Teleton ci propone un nuovo appuntamento per sostenere la ricerca, e sappiamo che sostenere la ricerca è un atto d'amore. Sì, sostenere la ricerca e soprattutto la ricerca per malattie come quelle di cui ci occupiamo noi, che sono malattie rare, per lo più trascurate dai grandi investimenti pubblici e industriali alla ricerca, è un vero atto d'amore, e è un atto d'amore che non deve interrompersi mai, perché la ricerca, anche soprattutto quella virtuosa, quella che funziona bene, ha bisogno di sempre più fondi, perché via via che si progredisce dagli stadi iniziali della ricerca, dello studio, a quelli più applicativi, quelli più avanzati, quelli che comportano la messa a punto di una terapia, beh, lì l'ordine di grandezza dei costi diventa enorme. Ed è per questo che ci ritroviamo a soli 2 mesi dalla maratona a richiedere un impegno in questo senso. Possiamo mandare i nostri ascoltatori a visitare il sito Teleton, dove troveranno tutte le indicazioni, dottoressa Pasinelli? Certo, troveranno tutte le indicazioni di una miriade di interventi che sono previsti in occasione di questo weekend di San Valentino, per cui numerosi partner si sono legati a noi per offrirci le loro competenze, i loro negozi, le loro reti di volontari per aiutarci nella raccolta di fondi, che in questo caso sarà proprio dedicata alle distrofie di Bethlehem e Ulrich, per le quali siamo molto vicini alla messa a punto dello studio clinico per studiare l'effetto di un farmaco potenzialmente efficace per curare queste malattie. Dottoressa Pasinelli, la ringrazio, quindi Telethon a San Valentino, ma non solo a San Valentino, grazie per essere stata con noi, buona giornata e grazie, buona ricerca. Buona giornata a voi. E c'è un altro appuntamento che voglio segnalarvi, questa volta in farmacia, domani, sabato 13 febbraio, in tutta Italia, nelle farmacie che espongono la locandina del banco farmaceutico, si potrà acquistare e donare un farmaco da banco a chi oggi vive ai limiti della sussistenza e secondo i dati Istat del 2008 sono più di 8 milioni di italiani. In linea con noi abbiamo con piacere Claudia Penoni, che insieme a Paolo Cevoli è testimonial dell'iniziativa. Claudia, benvenuta, grazie. Grazie a voi di avermi potuto, insomma, farmi parlare quest'oggi con voi, e sono persino emozionata, mi sto intoppinando perché ti ascolto sempre, Nicoletta. Anch'io ti guardo sempre, che bello. Senti Claudia, ci racconti, ci lanci magari un messaggio per convincere, il dottor Confalonieri è già convinto perché sapeva già che domani, l'ha sentito anche in Radio 24, bene, è la giornata, una giornata importante, la giornata di raccolta del farmaco, quindi certo, il dottor Confalonieri può anche darti una mano, ma... Ma guarda, allora, io mi chiedo scusa per la mia voce, sono rauca, l'ho persa ieri sera, poi vi chiederò un consiglio, voi siete bravi a darne. Allora, per quanto riguarda domani, come dicevi tu appunto, se c'è la locandina esposta fuori, basta entrare, sì, e si può vedere proprio fisicamente il movimento del farmaco che tu compri, entra dentro una scatola, e quella scatola, meraviglia delle meraviglie, nel giro di pochissimo tempo va direttamente presso l'opera, diciamo l'ente assistenziale che ha preso accordi con la farmacia riguardo la città dove si trova. Ad esempio io ho conosciuto bene le persone dell'Opera San Francesco a Milano, sì, parlo di Milano perché sono milanese, certo, e c'è questo passaggio diretto, per cui la cosa bella è che tu sai che quel farmaco che va nella scatola, uno o più farmaci si possono comprare, sai che quel farmaco lì consigliato dal farmacista, loro hanno una lista, quindi ti consigliano, ci sono anche farmaci di diverso prezzo, chi può spendere meno, chi può spendere di più, a partire dall'aspirina o un sacco di altre cose, che appunto i farmaci da banco, le cose fondamentali, insomma, prendi questa scatolina, finisce dentro al paccone gigante, quel paccone arriverà dritto dritto all'opera assistenziale che potrà aiutare chi ne ha bisogno. Cercherò di essere breve, purtroppo mi dicevano che negli ultimi anni sempre più famiglie italiane hanno avuto problemi a comprare dei farmaci, quindi non soltanto immigrati o proprio i poveri, più estremi, insomma, come era una volta. Purtroppo negli ultimi anni sono aumentate moltissimo le famiglie. Ecco, non avere i soldi per comprarsi il farmaco. Noi riflettiamo troppo poco su questo aspetto. Dottor Confalonieri, vuole aggiungere? Sì, sarò rapidissimo. Io direi facciamolo magari rinunciando noi per una volta a uno dei farmaci di cui abusiamo. È proprio un passaggio. Ne compriamo uno in meno per noi, ne regaliamo uno, magari sopportiamo il dolore quella volta un pochettino di più e facciamo del bene. Claudia, metti una parola buona per il dottor Confalonieri, prossimo testimonial insieme a te, a Paolo Cevoli, del prossimo anno. Un abbraccio a Claudia Penoni, che speriamo di avere qua in carne e ossa nelle prossime puntate. Un onore per me. Grazie a voi che ci avete seguito, e ricordatevi allora gli appuntamenti che abbiamo segnato nella nostra agenda. Devo scappare, dottor Confalonieri, un bacio anche a lei, a venerdì prossimo. Invece noi a domani con Questa Casa Non È Un Albergo.